Vorrei chiederle di... Capito il titolo del libro? No, sul titolo del tema che ha capito. Su quelli che lei chiama i complessi di Gaza. Questa pagina del colonialismo italiano che è stata rimossa, Mussolini che sul revanchismo della campagna di Etiopia, indicata come una campagna che avrebbe dovuto vendicare l'umiliazione di 40 anni prima, all'interno di questo revanchismo che ha strumentalizzato, che ha usato, però nei suoi discorsi non ha mai usato la parola. Nel 96, a 100 anni dalla battaglia, e nonostante il governo Dio che avesse invitato la delegazione italiana a partecipare per Addis Abeba alla commemorazione della battaglia, nessun rappresentante del Ministero degli Esteri è andato, si è recato, ha accettato di rappresentare l'Italia in quella occasione. Parliamo del 96, una sorta di bocconi anche forse non solo per l'Italia fascista ma anche per l'Italia repubblicana, questo è continuato ad essere. Volentieri, vogliamo vedere se c'è qualche altro kamikaze, qualche altro volenteroso, prima o primo o ultimo della classe con qualche cosa? Se c'è, mettiamo due o tre cose insieme, no, poi va. Ecco. Sì, io sono un insegnante del montagna, stagionale. Mi chiedevo, anche per aver sentito recentemente una trasmissione radiofonica molto interessante che parlava della battaglia di Gondar e quindi della perdita durante la seconda guerra mondiale dell'Etiopia, delle operazioni militari del fronte africano, se a suo parere il colonialismo, particolarmente il colonialismo italiano fascista, non avesse delle caratteristiche peculiari rispetto al colonialismo, diciamo, imperialistico inglese o delle altre grandi potenze europee dell'epoca. Lei ha già fatto cenno alla questione del retroterra economico che l'Italia non aveva rispetto invece alle altre potenze. Ma in quelle trasmissioni in particolare si sottolineava un po' il mito prettamente mussoliniano, più che in generale fascista, di un colonialismo diverso. Cioè le colonie avrebbero dovuto servire come bacino di espansione demografico e soprattutto creare un modello di superiorità razziale del colono italiano, il quale con la sua operosità e con la sua fede fascista avrebbe dovuto espandere, diciamo, la grandezza italiana fuori dai territori nazionali. E questo mito, che poi era semplicemente un sogno, perché risulta che anche i coloni italiani si imborghesivano, si arricchivano, eccetera, sia stato forse, si diceva, il pretesto per quelle leggi razziste del 37, per cui Mussolini era indignato perché gli italiani si mescolavano molto volentieri anche sessualmente con gli abitanti delle colonie, Ecco questa. Una seconda cosa, so che siamo fuori tema, ma una riflessione secondo me potrebbe essere interessante rispetto al quadro cronologico, ai confini 1415-1998 che lei ha segnato, certo non europeo, ma l'imperialismo di chi intende esportare la democrazia con le guerre in Iraq e in Afghanistan, che non è europeo ma che comunque coinvolge la cultura occidentale d'Europa, non possa rientrare in questo contesto. Grazie. Non mi è giovane molto questo. No, infatti. C'è giovane, l'età media, anche di queste cose qua, che non hanno di qua. Siamo là, poi tu pensi, come no? Non ci sono, non c'è niente. Salve, allora volevo chiedere una definizione sull'ultima sua frase, cioè il crimine della memoria in realtà è non avere memoria, ma quando vediamo che in realtà la memoria funziona al contrario, cioè ad esempio quando nel 2012 è stato eretto un monumento al generale Graziani, e cosa succede? Non si parla di crimini della memoria o si parla ancora di fascismo? Così deve essere inserito. Perché non potremmo applaudire il cuore se fai una tratta così sul movimento Graziani. Giusto, brava. Ancora qualcosa? Vedo di dare. Però no, signora, guarda. Ascoltare il professore che ha fatto veramente un sforzo molto interessante, ma un po' anticipato il professore Cocca, perché io ho un dubbio e lo chiedo al professore che me lo chiarisca. Penso all'economia di mercato, una globalizzazione del giorno d'oggi, no? Alla quale se qualche Stato si oppone viene sanzionato, viene fatta la guerra e in qualche caso per qualche crimine. È da considerare una relazione come ha fatto Marco Polo, per dire, o devo considerarla come un'imposizione coloniale e di dominio? Questo è il mio dubbio, perché io la considero alla stregua di un imposto coloniale, di una relazione coloniale. Grazie. Io penso che potrebbe passare, quindi se c'è qualcun altro però facciamo questa sera. Non si cercherò di dare qualche risposta a quella, non si adondino gli altri domandanti se parto dalla più giovane, perché mi sembra che abbia colto un punto importante. Cioè il crimine della memoria, non avere memoria, la memoria al contrario. Allora, questo è un punto interessante, perché ci fa capire più o meno come funziona non la storia nel senso di ricerca storica, no? Di quegli sciagurati che invece andare in una fabbrica dove si fa l'oro, vanno in un archivio polveroso a cercare documenti del passato. Non come si fa la ricerca storica, ma quello che la gente sa, quello. Noi lo chiamiamo il senso comune storiografico, quello che la gente sa di storia. Come funziona? Funziona perché la storia, guardate bene, non è la memoria, perché nessuno di voi ha memoria dell'impero romano, oppure chi ce l'ha me lo dica, perché vuol dire una medicina potentissima, perché ha più di 2000 anni di età. Qualcuno di voi può avere una conoscenza, un senso comune storiografico sull'impero romano o nel caso che ci interessa sull'impero coloniale. Qualcuno può avere però ancora memoria, perché voi ricorderete che io ho detto che gli ultimi italiani dominatori coloniali hanno lasciato l'Africa nel 1943. Però qualcuno che è nato, qualche italiano che è nato lì e che possa o voglia o sia riuscito a rimanere lì potrebbe essere ancora vivo, sono ancora vivi. Poi può esserci una memoria non diretta, ma una memoria quasi diretta. I figli dei coloni italiani, ormai non ci sono più tanto, ripeto, italiani che hanno lavorato come colonizzatori o anche come coloni, come contadini, come braccianti, come artigiani nelle colonie italiane, però ci sono i loro figli. Allora loro non hanno un'esperienza diretta, ma gliel'hanno raccontata, un'esperienza quasi diretta, una memoria mediata. E poi ci sono gli, come dire, insieme ai portatori di memorie, questi, dirette o quasi dirette, ci sono gli imprenditori della memoria, che bello. Gli imprenditori della storia, che non sono gli storici, quello ve lo dico alla fine, gli imprenditori di storia cosa sono? Sono quelli che hanno interesse a che sia ricordato un pezzo della storia, che piace a loro. Dico questo, il differenzio dagli storici, perché gli storici, se sono buoni storici, dovrebbero ricordare tutta la storia nella sua complessità, e anche quanto più la rendono complessa e più articolata, più si avvicinano alla storia come stata. Ma ci sono invece quelli a cui piace un pezzo della storia, eh? Arrivo al tuo punto, quello della memoria che viaggia al contrario, perché spesso ormai non è più memoria, ma è imprenditoria politica, direi, culturale, di un pezzo della storia. Allora noi abbiamo in quest'Italia fanatici di un passato che ormai è passato, che non può tornare, diciamo, che nel caso italiano è stato fastidio. Allora, mettiamo l'azione di queste enclave, di queste piccole isole, perché sono piccole, insieme ad un senso comune storiografico che non sa perché nei manuali di storia non c'è niente, e allora anche il monumento a Graziani o a Balbo, più esattamente, come lei diceva, può essere qualcosa che passa, perché nessuno si ricorda che cosa ha fatto Graziani o cosa ha fatto Balbo. Certo, il mausoleo a Graziani, brutto tra l'altro, una delle cose più brutte che abbiamo visto storicamente in Italia negli ultimi anni. È sicuramente un gabinetto dove c'è scritto patria e onore, può funzionare in Italia, che ha un senso comune storiografico del passato fascista prossimo al brutto bene, e che ha poca memoria o ha una memoria interessata, quella dei fanatici. E se una cultura come questa riesce ad avere un finanziamento pubblico, c'è che poi c'è il pronipote di Graziani, il nipote del pronipote di Graziani, che è affezionato alla memoria del nome. Io non ho niente di contrario, nell'orto di casa tua si mette un cubo di questo tipo, probabilmente non dorme gli occhi perché lo guarda e rimane sveglio alla potenza, ma diciamo così, se lo fa a casa tua problema non ce n'è. Ma se ti fai in una piazza pubblica, in un parco pubblico reinaugurato e realizzato apposta con finanziamenti pubblici, questo è il problema, di non solo di piccole enclave, di piccole isole, no? Di questi portatori di memorie o di ideologie, ma perché c'è un senso comune storiografico che non ricorda cosa. Uno, che Rodolfo Graziani è stato uno dei allora colonnelli che hanno riconquistato la Libia dopo che gli italiani l'avevano persa nel 1915, e che l'ha conquistata anche grazie all'instaurazione in Cirenaica di una serie di campi di concentramento. Siamo anche così dal tempo, mica che chiamiamo noi, che potremmo essere dipinti come storici prevenuti, ma in realtà lo chiamavano loro campo di concentramento, e quindi lo possiamo chiamare noi, una serie di campi di concentramento in Cirenaica dove sparisce metà della popolazione della Cirenaica. Non è il genocidio nazista, però è qualche cosa. Allora, Graziani è questo, Graziani è quello dei gas in Etiopia, Graziani è il vice governatore dell'Etiopia in quegli anni, insomma, Graziani è anche questo. Allora io, una persona come questo, un monumento non glielo farei, e se fossi un amministratore pubblico mi guarderei al finanziario. Se lo si finanzia è perché la memoria, o più esattamente il senso comune storiografico, quello che si sa di storia in Italia, è molto basso, è molto povero. Non ci sono vaccini, quindi partiamo da questa cosa qui, per poi rivedere le altre cose che sono state sollevate, che potremmo più o meno mettere in ordine cronologico. il complesso di Alba. Alba che cos'era intanto? 1896, un tentativo dell'Italia liberale del tempo, dell'Italia di Francesco Crisi, di conquistare le Fiore. Alba si trova in territorio etiopico appena passato il confine tra Eritrea e l'Etiopia. Gli italiani vanno avanti, cercano con 15.000 uomini sul terreno di conquistare l'Etiopia, arriva l'imperatore etiopico con 100.000 uomini e ne fa, diciamo, e l'Italia perde la battaglia di Alba. Che cos'era questa battaglia di Alba? Era quindi una ferita all'orgoglio nazionalista, liberale, non fascista, non c'era fascismo, all'orgoglio nazionalista. Ed è così pesante questa ferita all'orgoglio nazionale che di Alba non si parla, o si parla cercando una rivincita. Questa rivincita la regalerà all'Italia il fascismo di Mussolini nel 1935-36, aggredendo appunto l'Etiopia, che a quel tempo era ormai uno Stato indipendente, riconosciuto alla Società delle Nazioni, che era un po' l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite del tempo. Quindi il fascismo placa il nazionalismo italiano conquistando l'Etiopia. L'Italia democratica e repubblicana, da questo passato liberale e fascista, avrebbe potuto benissimo tenersi lontano. E invece, come è stato ricordato, nel centenario di Alba, quando lo Stato etiopico indipendente fa una manifestazione ad Alba, appunto, non manda rappresentanti del governo, ci vanno rappresentanti della Camera, del Senato, di alcuni gruppi parlamentari e non di tutti, e alcuni storici, ma il governo non c'è, lo Stato italiano è assente. Ma la cosa non stupisce. Nel 1937, lo stesso anno delle legislazioni razziali, Mussolini prende un obelisco, una grande struttura, a una città non lontana da Alba, si chiama Axum, una città santa. Prende questo obelisco e lo porta in Italia per magnificare la conquista fascista dell'Etiopia. L'obelisco di Axum sta in una piazza romana dal 1937, nonostante che l'Etiopia ormai indipendente lo richieda già nel 47, 10 anni dopo, ci sta fino al 2005. E per forza, quindi, in un certo senso non ci sorprende che nel 96 il governo non mandi nessuno. Tra l'altro, nella vicenda dell'obelisco di Axum si espongono, direi incautamente, dei grandi esperti d'arte, come voi l'avete visto qualche volta in televisione, il critico d'arte Scarpa, che disse è intrasportabile, e infatti nel 2005 hanno trasportato, non è successo niente. Va bene, quindi questo è l'orgoglio nazionale italiano. Vedete quante lunghe conseguenze, quanti strascichi di forza. La seconda guerra mondiale, con l'Etiopia del 41, il colonialismo liberale e il colonialismo fascista, che differenze c'erano? Erano contesti appunto diversi, sistemi politici diversi. Lo stesso orgoglio nazionale, moltiplicato sotto il fascismo, ma anche appunto in contesti diversi. L'Italia liberale, al tempo dell'Italia liberale, tra fine 800 e fine 900, era l'ultima delle potenze europee. L'Italia, dopo il 1918, quando, ormai segnatelo, per questo la domanda dei professori universitari, quando fanno gli esami, gli imperi, come si dice la prima guerra mondiale? Finisce con la caduta dell'impero zarista, dell'impero ottomano, dell'impero tedesco e dell'impero austriaco. Con la caduta di questi quattro imperi, l'Italia del post 1918 è molto più importante, cresce di importanza. Mussolini rappresenta quest'Italia in teoria più forte, ma quando nel 1933 Adolf Hitler sale al potere, l'Italia fascista ha bisogno di un successo di prestigio contro la Germania e si inventa quindi la guerra dei giochi, un nemico facile da battere e con il quale Mussolini crede di poter dimostrare a tutti gli europei che l'Italia è una grande potenza. Vi ricordate il film di Charlot in cui due dittatori cercano ognuno di salire più alto di quell'altro sulla sedia da barbiere, no? Quando Hitler gioca con il baffamondo. Mussolini, nella traduzione italiana e nella traduzione inglese Napoleone, e Mussolini voleva far vedere a Hitler che era assai potente perché poteva addirittura conquistare l'Italia, che è molto più grande dell'Italia e della Germania metterciene. Ecco, il fascismo è questo: tentare di apparire grandi quando non c'è poi dentro, dietro, niente. E infatti il controllo dell'Etiopia non ci sarà mai, il controllo pieno dell'Etiopia non ci sarà mai, la valorizzazione non ci sarà mai. In Etiopia l'Italia fascista vivrà un mantenere soldi incredibile, più la legislazione razziale. Questo mi sembra, in molta sintesi, come si può fare in questi casi, in questi momenti, una buona descrizione del fascismo. Grande nazionalismo, violenza militare, nessuna potenza economica e restaurazione, reazione, legislazione razziale. Il Lebensraum, lo spazio vitale, l'Italia fascista se lo andava a creare con i deboli, mentre la Germania nazista almeno aveva praticamente grandi obiettivi, cioè conquistare e ristrutturare demograficamente e politicamente il centro e l'est Europa, andando a conquistare pezzi dell'Unione Sovietica, della Polonia, della Francia, eccetera. E questo era il nuovo ordine europeo sognato da Hitler. Mussolini aveva pensato un nuovo ordine mediterraneo che permettesse appunto all'Italia di controllare, come dicevo, i Balcani, l'Albania, un pezzo forse di Turchia, un pezzo di Egitto, la Libia, la Tunisia, un pezzo di Francia, un piccolo di pezzo. Ma questo nuovo ordine mediterraneo non si basava su niente, più o meno nel tempo del mondo, quindi clamorosamente nel 1943. Le ultime due osservazioni a cui rispondo con due telegrammi, perché sono temi molto grandi, e possono essere riassunti su questo, sotto questo titolo: sono le operazioni all'estero, le operazioni militari all'estero, e in genere la globalizzazione, che è quindi economica, politica, militare, riassumibili sotto il termine colonialismo? Allora, qui basta intendere, dice lo storico, basta intendere una questione di categorie. Se dobbiamo fare una categoria polemica, allora va bene anche usare colonialismo, imperialismo, usate la categoria che volete. Dal punto di vista storico, diciamo tecnico, io non userei il termine coloniale, perché il termine coloniale, ripeto, è un passato che non torna, è una roba, per parlare a giovani, è una roba da vecchio, è una cosa che ha vissuto per 5 secoli ma che non funziona più oggi. Perché? Perché implica il dominio. Quando gli Stati Uniti nel 1991 fanno guerra all'Iraq di Saddam Hussein per piegare Saddam Hussein e non lo vincono, hanno bisogno di una coalizione di 35 stati e non ce la fanno e non dominano l'Iraq. E quando poi la coalizione internazionale invece dopo il 2003 piegherà l'Iraq di Saddam Hussein, non governa il territorio, non governa l'Iraq. Quindi tecnicamente è difficile parlare di colonialismo. Usiamo un altro termine, inventiamoci un altro. Qualcuno negli anni 70-70 inventò il termine neocolonialismo. Oggi si parla di post-colonialismo, ma probabilmente non possiamo usare lo stesso termine. Ci sono tantissime analogie, ma una fondamentale non c'è più: il dominio. Questi sono stati indipendenti, cittadini di questi stati vogliono essere indipendenti. Gli afghani, gli iracheni, sono stati indipendenti. Quindi la globalizzazione di oggi, per schematizzarlo, non è né Marco Polo, giustamente come è stato ricordato, ma non è nemmeno Graziani, non è nemmeno Rodolfo Graziani, non ce lo vedo Cini, Ramsfield o altri nelle vesti di Graziani, semplicemente perché sono più deboli. Storicamente l'Europa, l'Occidente è più debole rispetto ai 5 secoli di dominio coloniale. Dobbiamo cogliere bene questo per capire la globalizzazione. Sta vincendo l'Oriente e il Sud, non il Nord e l'Occidente. E quindi siamo in una storia nuova, siamo all'inizio, quindi è difficile anche distinguere dalla storia passata. Ma siamo in una storia nuova, certo il vecchio cerca di prendere il nuovo e portarlo a fondo, ma non so chi vince, nessuno lo sa, chi vincerà. È una storia terribilmente complessa, dove gli impulsi economici sono fortissimi, ma chi esalta o depreca l'impero americano, l'impero statunitense, dovrebbe ricordarsi oggi che l'America sta in piedi perché la Cina comunista, da 1.200.000 persone, tiene così l'America e gli Stati Uniti con il debito pubblico. Se Pechino domani vende il debito pubblico statunitense, l'America non esiste. Quindi è curioso questo mondo in cui si pensa di chiamare impero, imperatore, una potenza che è sempre più debole, perché questa è la prospettiva nuova che dobbiamo avere di fronte. L'Occidente sta perdendo rispetto all'Oriente. Io non dico che sia bene o male, non dico che mi piace più l'Oriente rispetto all'Occidente, mangio il couscous come mangio la pizza, un giorno sì, un giorno no. Se cerco di scendere di riso, ecco, se dovessi mangiare tutti i giorni riso o tutti i giorni pizza, ma mangerei, vorrei scendere. Se la globalizzazione è il pensiero unico e tutti devono mangiare un panino da McDonald's, con tutto rispetto, o McBurger o quello che volete, il risultato sarebbe solo una grande gastrite, diciamo. Il pensiero unico, l'alimentazione unica rovina solo lo stomaco. Se uno può scegliere è meglio. Però il punto di fondo qual è? È che l'Occidente non è più una potenza coloniale. Se lo può sognare. Paradossalmente i più grandi critici dell'imperialismo, quello che chiamano imperialismo, i più grandi critici dell'occidentalismo oggi non fanno altro che scagliarsi contro qualcosa che non c'è più, che sta cambiando. Gli Stati Uniti da solo hanno la metà della potenza militare del mondo, ma hanno una quota sempre minore della potenza economica del mondo. Che impero è? Quello che è governato da un popolo. Allora quindi, qui finisco, le questioni sono molte e grandi, ci sono molte analogie col passato, è chiaro che non solo in Occidente e nel nord del mondo, ma anche nel sud del mondo si continua a utilizzare queste categorie. Contro gli Stati Uniti e contro l'Europa e l'Iraq si parla da parte degli iracheni di imperialismo. Terroristi internazionali si scagliano contro gli occidentali in giro per il mondo parlando di imperialismo, ma anche essi, anche nel sud del mondo, permane un'ideologia che, a mio modestissimo avviso, non fotografa più il mondo quale è oggi e quale sta cambiando. Quindi il colonialismo, possiamo dire, ce l'abbiamo alle spalle, non sappiamo dove siamo, ma certo in un mondo che non è più quello di noi. Che la prossima settimana ci sarà il terzo incontro sulla mancata Norimberga italiana con il professor Gattini. Una piccolissima cosa, io ho un po' detto io bene e mi ha colpito molto il racconto che ha fatto mia figlia e mio genero quando sono andate a prenderlo da Elisabetta, perché hanno dovuto firmare una carta in cui riconoscevano la nobiltà del popolo etiope, il suo orgoglio, la sua storia, che non era stata certo sminuita dalla conquista italiana. Ecco, vedete la memoria com'è diversa. Noi abbiamo ignorato queste cose, popolo etiope no. E mi è piaciuta moltissimo questa cosa, che, perché ci sono molti bambini etiopi che sono stati adottati qui nella zona di Vicenza, c'è un'associazione molto forte. Ma tutti si impegnano a crescere quei bambini dell'orgoglio della loro patria, della loro origine, della loro etnia. Mi sembra una cosa molto bella, tutta sì democratica. Adesso no, mercoledì mi pare che me ne vado.